Mi manca il tuo cane, ma non mi manchi te. Hai pianto la tua festa, perché c'ero io con te per stare meglio. Ho bisogno delle benzo. Baci solamente te.